questo. Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. È autore di grandi successi della musica italiana, come La Notte, Controvento, Il Diario degli Errori. Nel 2018 vince la Targa Tenco nella sezione Opera Prima. Esce con il singolo Berlino, Giuseppe Anastasi. Berlino nasce un anno e mezzo fa, a casa del mio batterista, nonché mio grande amico Walter Sacripanti, perché l'abbiamo scritta insieme. Ci è piaciuta e l'abbiamo messa in archivio. In realtà è una canzone... Ma guarda, c'è una parte politica e una parte d'amore, ecco, diciamo così. C'è il lieto fine d'amore, ma c'è il crollo, diciamo, di un'ideologia. Poi c'è una nuvola, troppa finta libertà, a nascondere tutte le cose, la visione lucida di una storia scomoda. A novembre non sbocciano rose. Aspettami al di là del muro, io sono ancora qua a contemplare il futuro. Cos'è rimasto poi? Solo noi, il blu degli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Tu a che punto della carriera ti senti? Perché ti sei rivelato come autore in maniera esplosiva, con dei pezzi che sono stati degli instant classic subito nella storia del pop italiano. E però sei stato un esordiente con la Targa Tenco come miglior opera prima 2 anni fa, mica tanto tempo, col tuo primo album. Come ti senti tu in questo ruolo di quasi esordiente molto famoso? Ma no, mi sento comunque un esordiente, perché una cosa è scriverle per altri, una cosa è metterci la faccia, salire su un palco, cantarle, anche se ti devo dire, ecco, una delle cose che mi manca di più di questo, di questa quarantena sono proprio i concerti, per quelli ho scoperto che mi piace tantissimo fare il live. Ma sì, io guarda, in realtà il primo disco l'ho fatto semplicemente perché è stata la paternità che mi ha fatto scattare questa voglia. In quel disco c'è tutto Giuseppe, c'è la parte ironica, la parte preoccupata, la parte futurista, la parte romantica. La mia speranza è che ogni volta che mio figlio, quando adesso c'è 5 anni, quando sarà più grande, ogni volta che ascolterà il disco, se gli va ad ascoltarlo, ovviamente troverà sempre suo papà. Ecco, questa è la cosa che mi ha spinto più di tutto. Poi è arrivata la Targa Tenco e sono felicissimo, perché è stato un premio eccezionale, non mi aspettavo. E anche la Targa Tenco mi ha fatto venire voglia di fare un secondo disco, ti dico la verità. E dunque questo secondo disco è in cottura, anche se questo è un periodo difficile per realizzare, ma è in cottura questo secondo disco? Allora, mancano 3 pezzi da cantare, ma non posso andare in studio e quindi non li posso cantare, ovviamente. E aspetterò fine quarantena per andare in studio e cantarlo. Sì, ma per ora, guarda, uso questa filosofia, tra virgolette, non posso uscire io, faccio uscire qualche canzone. Dopo Berlino farò uscire un altro singolo, perché comunque... L'arte non si può fermare, io credo che si sta fermando tutto, almeno noi che possiamo prendere anche una chitarra a casa e tenere un po' di compagnia a un po' di gente con una diretta, perché molti, ho sentito delle polemiche dicendo ma perché non si stanno zitti alcuni, non lo trovo giusto, secondo me. A parte che le case sono circondate da libri, tu dietro c'è una libreria, circondata da dischi, ti vedi un film, cioè l'arte fa parte di questa quarantena, non c'è niente da fare. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Giuseppe Anastasi. I prossimi appuntamenti con RadioTube sono il sabato con Social Village e Social Network in diretta dalle 16:00.